Da oggi il rock lo ascolti su una sola radio. Oh, retrogradi! Da oggi pane, burro e rock and roll si ascolta da due radio. Sintonizzati su radiorockfm.com e troverai tutto l'archivio di pane, burro e rock and roll. Contemporaneamente accendi la tua radio dalle 7 alle 9 del mattino. Così potrai ascoltare due Arieli e due Fricantoni al prezzo di uno. Non posso Se resistere. Potuto non esserlo. Ah, sì, sì, ah, non mi posso trattenere. Sì, ma scusa, così poi non si capisce niente. Beh, ma è terribilmente rock. Va bene. Pane, burro, rock and roll. E la tua colazione non finisce mai. Giungiamo alle attese soluzioni con il test attitudinale. La domanda era: perché Jimmy Page scelse le Zeppelin? Forse, mio caro Frick, perché tributò il dirigibile Led Zeppelin schiantatosi nell'agosto 1900 vicino a Stoccarda, scusate? Ma non mi pare così. Tranellino nella domanda di quest'oggi. Così come non mi sembra che fosse Jimmy Page un fortissimo appassionato di dirigibili. No, questo sicuramente no. Allora, facciamo così: la risposta esatta era la C. Fu Keith Moon, in un momento di euforia, forse causato da alcol o qualcos'altro, a dichiarare: cadranno a terra come un Led Zeppelin, aggiungendo alla parola Zeppelin, che era il nome di quel dirigibile, il termine lead, come led, scritto lead, come piombo, quindi cadranno come un dirigibile di piombo. Jimmy Page poi, per rendere più semplice e americanizzare il loro nome, scelse Led Zeppelin con una sola E, ma il significato era quello, un dirigibile di piombo che crolla. Poi il riferimento al dirigibile effettivamente c'è, e anche nella copertina di Led Zeppelin 1, il dirigibile che si infiamma. Guardo Isacco Rizzi nella speranza che confermi quello che sto dicendo. Sì, glielo confermo io. Anche la risposta esatta era la C. La C nel secondo delle Zeppelin si vede chiaramente sia la forma del dirigibile in che una fuoco. Foto d'epoca ritoccata con l'equipaggio nel quale poi sono stati inseriti i quattro del gruppo Led Zeppelin. Certo è che Ferdinand von Zeppelin, occultista inglese della fine del Settecento, non è mai esistito. Era una pura invenzione, sì. Un altro tranello della nostra redazione maliziosa, ma voi non ci siete cascati, pertanto avete diritto a due punti. Forse anche a tre, perché No. Ma specifichiamo quattro? Vogliamo esagerare? Vale. È l'inizio dell'anno, quattro punticini per voi. Ricordiamo tutti che il già citato Keith Moon è il compianto batterista degli Who. Ha fatto bene a dirlo. Si sa mai, meglio specificare. Bye. Questo ovviamente è Immigrant Song, Led Zeppelin. Buongiorno dall'Ariele, ultimo blocco di Pane, Burro e Rock'n'Roll, il quarto. Io avviso i fedeli di Pane, Burro e Rock'n'Roll che... come posso dirglielo? Questa era Immigrant Song, versione originale. Secondo scaletta di Pane, Burro e Rock'n'Roll, vi avviserei che venerdì, quindi nell'ultima puntata della settimana, potremmo tornare a occuparci di Led Zeppelin col Kazoo. Io vi avviso. Ci stiamo allenando, è due giorni che è fine trasmissione, io, Frick e Isacco Rizzi ci mettiamo lì col Kazoo e facciamo le prove, perché per venerdì proporremmo una Immigrant Song col Kazoo. Quindi se siete puristi del genere, trovatevi un'altra radio entro venerdì. O almeno quei, io vi avviso che succederà, poi vedete voi come prenderla. Provo a fare un po' di saluti. Fabio 65, Mauro da Zena, un nuovo gruppo d'ascolto che ci ascolta dalla California. Sì, però quella con alle spalle Cecina. Ciao fratelli, un abbraccione. Giulia da Livorno, Stefano Patente 715, Mauro da Firenze, procacciatore d'ascolti, un altro Mauro ma questa volta da Zena, il topone Chris Patente 883, Francis Alter da Milano. In molti di questi hanno segnalato il loro desktop rock, sono quindi impiegati che stanno seguendo il nostro sondaggio, poi li leggerò quando sentiremo il nostro inviato 147. Salutiamo la patente 1058, il buon Massimo, Fabio, un altro patentato, il 1129, che confessa via sms, lo so, non avrei dovuto farlo, l'avrei chiesto, ma ormai è successo. Oltre al calendario, Ilario e Marco mi hanno portato dalla Flog la mia patente 1129. Posso tenerla? Ma sì, dai, tieni. Dai. Siamo magnanimi oggi. Bisognerebbe fare il... non farmi ci parlare. Idraulico romagnolo che si cimenta nel tenere a battesimo, seguendo il secondo sondaggio di quest'oggi, la band del nostro Matte, tredicenne di Firenze, The Polcats Putative Father, ovvero il padre putativo della puzzola. C'era un altro che proponeva i ribolliti. Vabbè. Saluti a Davide, Fabrizio da Milano, Stone, Enrico 704, Luca da Imola e Sab, che ha veramente una pessima idea. Abbiamo detto oggi che Chuck Bird ha chiuso battenti per quanto riguarda l'Early Bird Special, ma vi tiene compagnia con due appuntamenti giornalieri all'interno di Marco Garavelli e del pomeriggio di Max De Rio, si chiamano Backstage Pass. E Sab dice: ma visto che non c'è più Chuck Bird, perché non iniziate voi alle 6? Certe idee bisogna tenersele dentro, Sab, non c'è bisogno per forza di scriverle, no? Ain't Talking About Love, Van Halen! there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to be, boy, baby. Got to be, baby. You got to be, baby. Hey, got to be, baby. Are you talking about love? Love is hurting to the core. Are you talking about love? Just like I told you before. Tuffiamoci di testa nella nuova premiata rubrica di pane, burro e rock and roll, le nostre leggendarie proteste. Se l'università regala una laurea honoris causa a Mike Bongiorno per averci insegnato, anzi imparato l'italiano, noi lo disimpariamo. Esatto, pane, burro e rock and roll non ci sta. Vogliamo una laurea honoris causa anche noi per avere disimparato a parlare l'italiano. E torniamo, caro Frick, a contattare un nostro caro inviato, col quale avevamo tra l'altro dato inizio a questa fortunata rubrica. È quell'esperto linguista della calabrese. Calabria, sì, Calabria Centro, dovrebbe essere in linea Pietro, bentornato! Buongiorno compari Ariel e buongiorno compari Frick. Buongiorno a lei. Pane e rock and roll. Ricordiamo ai radioascoltatori che con Pietro disimpariamo a parlare l'italiano e impariamo a parlare il calabrese. Esatto, noi i dialetti proviamo. Sono da rivalutare. Nel primo appuntamento ci avevi sfoderato un proverbio, quest'oggi andiamo ancora sui proverbi. Sì, semplice, una cosa semplice. Mi raccomando, non sgridarci troppo se sbagliamo la pronuncia. D'altra parte, noi ci proviamo. Io sono di Varese, lui è di Bologna. Però abbiamo tanta buona volontà. Ci applichiamo. Andiamo con la parola, il proverbio da disimparare quest'oggi. Vai, Pietro! Ed è questo: a piru cotuatu, amaru chi ne c'è incappato. Aia. Lo facciamo a pezzettini, eh? Dai. Prima ripetiamo. Prima diciamo cosa vuol dire. Beh, il senso è che a volte le colpe degli altri vengono date a chi è innocente. La saggezza popolare che Mike Bongiorno voleva gettare così alle ortiche. Esatto, tra una gaffa e l'altra. Allora, proviamo con la dizione, Pietro. Ripeto? Io faccio a pezzettini, vai. Sì. Dai. A piru cotuato. Amaro chi ne c'è incappato. È difficile che ce l'ha aspirato, eh. Amaro chi non c'è incappato. Applicatevi. Non riesco. Riproviamo. Fammelo risentire. A piru cotuato. Amaro chi ne c'è incappato. Amaru chi non c'è incappato. Dai Pietro, insomma, è meglio della prima volta, secondo me. Amaro, non è facile. Me lo sono già dimenticato, bisognerebbe appuntarselo, me lo tatuo dopo sull'avambraccio. Ma ricordiamo ancora il significato di questa frase, scusa? Certo, che in realtà a volte le colpe degli altri vengono addossate sugli innocenti. Ma letteralmente, a piru cotuato cosa vorrebbe dire alla lettera? Vuol dire che quando c'è un albero di pere e il padrone lo trova senza pere, ovvero un pero scotonato. Pietro, però esatto, ce la devi spiegare questa cosa. Un pero scotonato? Sì, vai avanti. Scotonato vuol dire raccolto, cioè. Ok. Scosso. Scosso. Sì, scosso, sì, esatto, sì. Scosso. Quindi senza più frutti. Sì. Il padrone se la prende con chi trova sotto al pero in quel momento. Ah, in calabrese ufficiale. A piru scotuato, amaro chi ne c'è incappato. Grazie Pietro! Grazie, un applauso! Grazie Piero! Bravo. Preziosissima consulenza! Che è proprio una gioia averla tutti i giorni qui con noi a Pane e Burro. Non dica così, lei mi fa arrossire. No, è una certezza avere Roberto. Ha sentito anche lei? Vagamente, no, il campanello. Campanello. Allora, se spegniamo, siamo in diretta, Spadin. Sì. Com'è? Chi c'è? Il portiere. Il così. Portiere o il portinaio, Spadino? Ma è già su? Vuoi farlo entrare? No, per favore. Sarebbe meglio quando tenerlo. Sì, perché quando arriva c'è aria di... Suona. Eccolo, buongiorno, Sir Peretti. Buongiorno. Buongiorno, ragazzi. La vediamo in splendida forma oggi. Ma mi mettete in imbarazzo, ma voi siete veramente... Sì, Ma mi dovete spiegare come fate a essere così eleganti? Ma è lei che è elegante, esatto. Guardi, è il condominio che da quando c'è lei lo stabile di Rock FM è elegante, è un condominio elegante. Ma voi mi fate arrossire perché il piacere per me di lavorare per una televisione come la vostra. Radio. È una radio. Radio, sì. Ma radio non Rock è un problema, FM. Non è un problema. Vede che non ci sono le telecamere. Siamo in radio. So che siete così eleganti perché per davanti a questi milioni e milioni di telespettatori voi dovete essere impeccabili. Sì. Ma non ci vedono, è una radio. Sì, Noi siamo eleganti perché è un vezzo nostro, devi essere eleganti. Un'eleganza naturale, è un grande piacere. Spero che non sia venuto su per qualche problemino forse causato. No, ragazzi, è proprio una sciocchezzina, una cosina. Voi sapete che io amo che certo. far sì che questo nostro palazzo sia uno staccanovista. Mi piace, sì, è una cosa. Giusto. Perché giusto. Uno deve sentirselo dentro. Non è un lavoro come gli altri, certo. Che dici fai le tue 8 ore. Per quasi me. Una vocazione. Dottor Antoni, lei trova le parole, è una vocazione. Comunque, non capisco perché viene a dirlo a noi se c'è qualche problema. Allora è successo questo. Cos'è? Abbiamo la stessa vocazione. Può essere, tutte le mattine io passo col Vetrix. Tutta la nostra portineria con quella specchia all'ingresso. Vedo che la sa che a volte io rischio di sbatterci dentro da tanto è pulito, sembra che non c'è niente. Sì, e non è un invece, complimento invece gratuito. Questa mattina c'era qualcosa. C'era qualcuno che ha starnutito bellamente. Maleducato. Cristallo. Guardi Peretti, l'influenza l'ho già fatta un paio di settimane fa e anche Frick siamo. Io ho un po' di ricadute, a dire la verità. Però ma da quanto non starnutisce, Frick, glielo dica. Saranno secoli. Sì, no, non siamo stati noi. Forse anni. Invece è proprio il dottor Antoni che l'ha fatto. Non me lo sarei aspettato da lei, Frick. Ragazzi, mi mettete in imbarazzo, io non ricordo. Ma da cosa riconosce? Ma io non penso. È di Frick. Non saprei. Ma dalla prova del DNA. La prova del DNA. Come fa a fare? Io c'ho il mio laboratorietto dietro qui nella portineria. Vedevo che è sempre chiuso. Ho fatto l'analisi del DNA, l'ho fatto la corrispondenza con tutti i campioni di DNA di chi lavora nel campione. Campioni di DNA. Certo, laboratorio. Oddio. No, d'altra parte qui devo tenere tutto sotto controllo, dovete saperlo queste cose. Certo, il campione di DNA di tutti quelli che lavorano qui e questo corrisponde perfettamente proprio Frick. A quello del dottor Antonio. Io mi scuso allora. Le basteranno le scuse. Brutto bastardo, la prossima volta ti apro il cranio e ti mangio il cervello come fosse un budino. Grazie ragazzi, grazie dell'attenzione. Mi raccomando, la prossima volta fate più attenzione con gli starnuti. Arrivederci. Sarà fatto. E non sbatta la porta, se signor Peretti. Ma anche tu starnutire contro il vetro, no, dai. Questo è inquietante. Ma l'hai sentito? Al laboratorio. Sì, ma non si starnutisce sul vetro. Ah, vabbè, ma mi è scappato. city's ripped back sides. We'll see the bright and hollowed sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Things from under glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride. The Passenger, Iggy Pop, è con l'Iguana che chiudiamo la puntata 162. Vado ad archiviare i vostri sms dedicati ai desktop. Spero di riuscire a dirlo giusto. Desktop rock. Sono dislessico, mica colpa mia. Chi l'ha detto che un dislessico non può fare radio? Archivio i possibili nomi per la band del nostro amico tredicenne di Firenze e vi do appuntamento domani. Saluti a Daniela, una nuova arrivata, ci conosce da poco ma già si è innamorata. Giacomo da Lucca che vuole un saluto a quelli che sabato non sono riusciti a entrare alla Flock. Giacomo, mi dispiace ma io non è che ci posso fare un granché, eravate in tanti, forse troppi, e quest'altra invece non la leggo perché la devo... La tengo buona per la prossima, per la puntata di domani. Archiviamo il 16 di gennaio, lo troverete tra pochi minuti su RadioRockFM.com per chi volesse ascoltarci in fuori sincro, in streaming grazie al sito della radio. Sigla! Pane, burro e rock and roll. Forse torneremo domani. La tua colazione rock. Dalle 7 alle 9 del mattino, pronti? Pane, burro e rock and roll. Ma che dicevamo oggi? Stilosi e acciaccati. No, no. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Guarda Garavelli che sono precisini i radioascoltatori del mattino, eh? Buona giornata. Buona giornata a te, fan bene, giusto? Cioè se mi scappa di dire desktop anziché desktop... Ti riprendono. Cioè quella S lì proprio li manda in carogna. Ti riprendono. Come va? Ma, senti giusto? No, a dire la verità no, però il microfono è quello giusto, dice Spadino. Vabbè. Mi preparo per ben tre ore con questi problemi. Sembra che sei in un acquario, una roba di questo tipo. Ok, vado e vengo. Vai e vieni. Sarà questo SX204 headphone amplifier che non funziona. Oppure è stato Fox Cristadoro. Sai che è proprio fastidioso. Vuoi cambiare microfono? Proviamo ad andare dall'altra parte, vediamo com'è. Dai, su. Sì, funziona meglio, direi di sì. Qui sei un signore. Sai che il microfono di Mox... Ecco, tra l'altro, chissà per colpa di chi... come avrebbe detto Zucchero. Chi lo sa, chi lo sa. Allora, che c'è? No, attenzione. Poi, nient'altro? Spadino. Mi sta boicottando. Previsioni del 16 di gennaio a cura del comandante Marco Garavelli. Ti ringrazio. Avevo preparato la Liguria, ma è troppo incasinato. Quindi vado e dirotto il tutto sull'Emilia Romagna. Mi piace molto. Esatto. Condizioni meteo tra l'instabile e il perturbato. Vedi un po'. Attesi rovesci sparsi in Emilia, in ulteriore intensificazione verso sera. Mentre sulla Romagna cadranno con debole intensità per gran parte della giornata. Attese anche nevicate sull'Appennino oltre i 1200 metri e fin verso gli 800 metri sull'entroterra piacentino. Un saluto agli amici romagnoli e a tutti gli altri, vi lascio in compagnia di Marco Garavelli fino a mezzodì. Grazie.